علم کا زمانہ بیتے گا رے بیتے گا، 你有没得实力还要去来当歌星，以为会捞几个眼子就在哪里装。 我也有一个 blue bomb， 阿峰桑他比就不是来当。 اسمعوني جيبوا شباب وما قد البنات نطلع الجبل للهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف. Violencia engendra violencia. Si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonix, Megaphonix, Megaphonix. La música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopoliticale. Aye bete yo chino in caro blizzisti mala. Tanti bu menne u cantini qua dai co yu dala. Eine Keller aus sich. Wir sind lesbisch, haben Mut, haben schon so lange gewartet. Helfen kann uns nur die Wut. Lastiga, lastiga, non sono perdita. Ho scelto da me, qual è la mia vita. Mafia, tout unir pour le même combat. Mafia, tout unir pour le même combat. Mafia, tout unir pour le même combat. E oggi, buonasera a tutti e buonasera a tutte. Per la Megaphonix di oggi ho deciso e pensato di parlare della grassezza o grassofobia, un'idea venuta dal fatto che ho visto dalle canne sciolte un cartello in cui nel locale, lo ridiciamo perché è molto importante che siano scritte queste cose, non si permetterà nessun razzismo, lesbofobia, omofobia, sessismo, transfobia, grassofobia. E dunque è importante, e come questa grassofobia o anche l'oppressione della grassezza è una tematica che ritroviamo da molto anni nel movimento delle femministe, delle lesbiche politiche, un po' come l'avevamo fatto sulla maternità, attraverseremo le epoche dagli anni 70 e anni diciamo di due anni fa, con dei testi che comunque rimettono in mezzo quale tipo di oppressione, di quale tipo di oppressione si tratta, un sistema politico che vuole mantenere le persone un certo ranghi, certi ranghi, e altre che comunque partecipano quotidianamente all'oppressione di altre persone, un sistema anche pieno di soldi, pieno di interessi a livello commerciale, un sistema normativo che tocca tutti i corpi, in particolare i corpi di donne. Yeah. It happened one day, and it happened in front of a hairdresser shop. She was sitting there, alone. She was waiting. Me too. But then, we crossed the eyes, and that's what I told her. Hillbilly liebt Wurstetal, Hillbilly liebt Käseplatte, Hillbilly liebt Sahnetorte, und Hillbilly liebt Schweinebacke. down, she looked into my brown eyes, and a smile ran over her face. I took her by her hands, and we walked away. E per capire il movimento di liberazione delle grasse avete bisogno di capire l'oppressione delle grasse. Questo testo, il manifesto per la liberazione delle persone grasse, manifesto del Fat Liberazione, un movimento che era un gruppo di femministe lesbiche nato negli Stati Uniti nel 70 e che scrisse questo manifesto. L'abbiamo ritrovato nel numero della rivista Amazzone di ieri, Lesbiche di oggi, del 92, che è una rivista di informazione e di riflessione politica prodotta da lesbiche radicali. E la rivista si intitola La grassezza, ossessione, punto interrogativo, oppressione, punto esclamativo. E dunque, ovviamente questa rivista inizia dando voce al manifesto della liberazione delle persone grasse e facendo anche un'intervista da Judith Judith, una tipa che faceva parte di questo movimento. E lei inizia l'intervista dicendo: per capire il movimento di liberazione delle grosse avete bisogno di capire l'oppressione delle grosse. L'oppressione degli obesi non tocca solo le grosse e le grasse e i grassi. Questo serve proprio a mantenere tutti nei ranghi. È tutto un sistema di controllo sociale che rende i più magri assolutamente terrificate all'idea di diventare grasse o all'idea che sono grasse. E una quantità enorme di energia è investito in questa ossessione della ciccia, del grasso. Le donne di formato media sono panicate perché sono al limite, quelle che sono al di là delle frontiere dell'accettabile, in uno stato funesto. È fuori di tutto ciò che è permesso dalla cultura bianca e americana. Se siete grasse, l'unica cosa che è sensata che potete fare è provare desesperamente di diventare non grasse. Se siete medie, potete e avete interesse a fare attenzione perché ci siete quasi. Se siete magre, potete o sentirvi superiore o essere preoccupata in ogni boccone che vi mettete in bocca, perché è così. Il manifesto, vi lo leggo, è di Judith Free Spirit e Aldebaran. Noi dichiariamo che le persone grasse hanno un intero diritto al rispetto umano e al riconoscimento. Noi siamo sconvolte dal trattamento cattivo che queste persone subiscono per fini commerciali o sessiste. Fanno dei nostri corpi oggetti ridicoli e creano così un mercato immenso, lucrativo, vendendo promesse false per finirne con questo ridicolo. Noi concepiamo la nostra lotta in solidarietà con le lotte di altri gruppi di oppresse che lottano contro il razzismo, il sessismo, le classi sociali, la discriminazione sull'età, il capitalismo, l'imperialismo e tutti i tipi di oppressioni. Esigiamo l'eguaglianza dei diritti per tutte le persone grasse in tutti gli ambiti come è previsto dalla Costituzione degli Stati Uniti. Esigiamo l'accessibilità a tutti i prodotti e servizi dell'ambito pubblico, anziché l'eliminazione completa di tutte le forme di discriminazione in ambiti del lavoro, dell'educazione, dei servizi pubblici e dei servizi della salute. Denunciamo come la nostra principale nemica l'industria del dimagrimento. Questo include tutti i luoghi di dieta, i saloni di dimagrimento, i medici specializzati nell'obesità, i libri di dieta, i prodotti dietici o supplementi dietici, interventi chirurgici, la medicina taglia fame, tutte le pillole e macchine per dimagrire. Esigiamo che l'industria detta del dimagrimento prendesse le sue responsabilità, faccia tutte le dichiarazioni sbagliate, che riconoscesse che tutti i prodotti sono nocivi per la salute pubblica e che rende pubblica tutti esigiamo che rendesse pubblica tutti i risultati statistici delle ricerche a lungo termine. Poniamo questa esigenza sapendo molto bene che quando si valuta su un periodo di 5 anni più di 99% dei programmi di dimagrimento sono un scacco totale e esiste prove secondo quale il guadagni e le perdite di peso successivi sono molto dannosi per la salute. Denunciamo una scienza mistificatrice che pretende a torto che non siamo in buona salute e questa scienza è l'origine sia della cosa e del mantimento della discriminazione che subiamo. In più va di pari con gli interessi delle compagnie di assicurazione, dell'industria della moda e del vestimento, dell'industria alimentare e farmacologica, anziché l'establishment del corpo medicale, il potere del corpo medicale psichiatrico. Rifiutiamo di essere soggetti nell'obiettivo di servire interessi dei nostri nemici, proclamiamo il nostro potere su tutti i nostri corpi, le nostre vite, ci impegniamo noi stesse a seguire questi obiettivi insieme. Persone grasse della terra, uniamoci, non abbiamo niente da perdere. Suicide, sogno la perfezione, le mie ossa un manifesto, il mio corpo un'ossessione. Questo mondo mi sta stretto come quel vestito addosso, devo essere perfetta, perfezione maledetta, il vestito dei 18 vuole la taglia 38, scusatemi sono fermata Anna, mi ha venduta. Sono di mia, non sono più mia. Vodka liscia è la mia pelle, sulle gambe snelle, specchio specchio delle mie brame, dimmi perché ho fame. Il vestito dei 18 vuole la taglia 38, scusate io mi sono fermata Anna, mi ha venduta ora, non sono più mia, sono di mia, non sono mia, sono di mia, non sono più mia. Sono mia, sono di mia, non sono più mia. Anna è trattoressia che mi porta via. Dentro e fuori sono vuota, vomito la vita. Scusate, io mi sono fermata. Anna mi ha venduta ora. Non sono più mia, sono di mia. Non sono mia, sono di mia, non sono più mia. Non sono più mia, non sono mia, sono di mia, non sono più mia, non sono più mia. E si continua sui percorsi e testi che sono usciti nelle ultime 45 anni, 40 anni, a proposito della resistenza alle norme della bellezza e soprattutto all'oppressione sociale che subiscono le persone grasse, in particolare le donne. E ritroviamo nel giugno 89, dopo che si è svolto in Inghilterra un primo convegno nazionale delle donne grasse, nel cui ambito si è svolto un seminario lesbico, le lesbiche grasse hanno stilato la seguente carta manifesto. Quello si ritrova nella la bollettina della CLI. Questa carta delle lesbiche grasse dice: non supporre che io voglio essere magra, che ho problemi con il mio peso. Non supporre che sono a dieta e che voglio mettermi a dieta. Non supporre che il grasso sia legato al mangiare. Non supporre che io mangio sempre o stramangio, che mangio più di te, che non ho controllo rispetto al cibo e che dovrei mangiare cibi differenti e che non amo mangiare. Non fare supposizioni sul perché mangio o su cosa mangio. Non supporre che il grasso è un rischio per la salute. Lo stress dell'oppressione verso il grasso e i pericoli delle diete sono rischi per la salute. Non supporre che il risultato di una dieta è la perdita di peso. Il risultato di una dieta è il deprivamento delle risorse del corpo, lo stress fisico e emozionale, il danno al cuore e altri muscoli, il guadagnare più peso e di quello che si è perso. Non supporre che non sono idonea dal punto di vista fisico e medico. Non supporre che qualcuno o tutti i miei problemi medici siano relazionati alle mie dimensioni. Non supporre che io sia asessuale, supersessuale o che nasconderò la mia sessualità. Non supporre che voglio prendermi prendermi cura di te. Non so una madre terra o un orsacchiotto ben pensato. Non supporre che io voglia come amante una donna magra. Non supporre che non la voglia. Non supporre che io sia senza speranza di avere amanti. Non supporre che io sia lenta, stupida, allegra, super forte, infelice, placida, più tollerante, sola, disperata. Non presumere che non sia titolare dello spazio che prendo. Non presumere che non mi arrabbio mai. Non presumere che sia una coincidenza o normale il fatto che non sei mai stata attratta da una persona, di una donna grassa, perché stai accettando gli standard patriarcali di bellezza. Non presumere che io voglia ascoltare i tuoi problemi con il cibo, la tua immagine del corpo, la tua ultima dieta, il tuo programma di esercizi fisici. Non presumere che il tuo corpo non cambierà. Non presumere che le donne grasse non abbiano vite piene. Non presumere che io voglia fare parte del tuo processo di apparentamento a proposito del grasso. Non presumere che tu sei del giusto peso e che esiste qualcosa come un sovrappeso. Sovrappeso di chi? Non presumere che io voglia o abbia bisogno della tua approvazione. Non presumere che i miei problemi di vita siano imputabili al grasso. Non presumere che dovrei indossare vestiti scuri, preferire il poliestere, non indossare short o costumi da bagno. Non presumere che questo è solo un problema personale, il grasso è un problema politico. Non dirmi o comportarti come o pensare come io sto alterando o esagerando gli inconvenienti delle oppressioni delle persone grasse. Ia uzi, băi, cânte cum am un radio, ați auzit? Da, ce cântă cu tău la radio, da? Ți-am mai spus un elat, da, ce? V-am zis că vreau să fac un video. Ce video clip, mă, dacă tu mănânci ciocolată? Mai lasă ziarul ăsta, uite, spune-i să nu mai mănânce ciocolată, că uite câte e. Dar cum să nu mănâncă? Lasă-mănânce. Michael Jackson, ai văzut cât e de slab. Ce care au făcut, eu nu știu dacă tu ai văzut. Auziți? People always say women should be thin, they should be on diet, but I don't care, I just enjoy. enjoy eating. I like my coffee with a lot of cream. I like to eat late at night. I like scrambled eggs after a sweet dream. I like potatoes deep fried. I like some sugar in my lemonade. I like chicken wings and steak. I like thick cheesecake, but homemade. I like a long-lasting lunch break. Give me the food, I say give me the food. Give me no fruit if you love me. Give me the food, I say give me the food. Give me no fruit if you love me. Some girls may think this chick's a little big. Slim girls don't understand, but I don't care. Some guys may say the perks that I deliver. They like the tight pants that I wear. I am Romanian, I love to eat. It's in my jeans, I can't control. Look at my curvaceous cousins, models can't compete. I am a woman, no skinny doll. Give me the food, I say give me the food. Give me no fruit if you love me. Give me the food, I say give me the food. Give me no fruit if you love me. Give me the food, I say give me the food. Give me no fruit if you love me. Give me the food, I say give me the food. Give me no fruit if you love me. Should only eat yogurt and strawberries. They say a lot of things, but you know, I don't care what people say about my weight. So if you want to take me out for a date, make sure there is enough good food on my plate. And maybe I Nel 2010 le nostre compagne di Grenoble della trasmissione De Genre facevano una trasmissione chiamata Trasmissione Enorme, dopo un weekend di laboratorio in cui avevano condiviso la tematica della grazzezza, spiegando che comunque hanno fatto dei laboratori separati di donne lesbiche grasse o misti con quelle che non sono grasse, e di quella è uscita questa trasmissione con tanti testimonianze che vi consiglio. Lo si trova sul sito di Radio Rageuse e ascoltiamo l'inizio di questa trasmissione. Camarades, on veut nous éradiquer, nous réduire à néant, nous contraindre et nous restreindre. Compagne, vogliono farci scomparire, ridurci a niente, costringersi e restringersi. Nous demandent sans cesse d'être moins flasques, moins pendants, moins lourds. Les vendeurs de régime. Ci chiedono sempre di essere meno flaccide, meno pensolone, meno pesanti. Voudrait que nous soyons qu'une fine couche de peau ferme et gracieuse. I venditori di dieta vorrebbero che fossimo solo una strata di pelle ferme e graziosa. Tu, c'est un génocide, mais n'oubliez pas que certaines se battent pour notre survie. Elles ci uccidono. È un genocidio, ma non dimenticate che alcune lottano per la nostra sopravvivenza. S'organise contro la lutte menée avec acharnement à notre rencontre. Si organizzano contro la lotta che ci combatta con accanimento. Eh bien, c'est d'un C'est un programme politique que je parle, d'une lutte. Et dit, eh bien, et si trata d'une politique, d'un programme politique, di quello che sto parlando? Contre une oppression, d'une norme qui nous écrase, ne tombons pas dans les pièges qu'on nous tend. Una lotta contro un'oppressione di una norma che ci schiaccia. Non caschiamo nelle trappole. Qui sommes-nous? Cessons les divisions entre les bourrelets gracieux et disgracieux, tolérables et intolérables. Uniamoci, smettiamo le divisioni tra cuscinetti graziosi e sgraziosi, tollerabili e intollerabili. Le muscle et la fermeté sont bel et bien une classe sociale, une classe qui défend ses privilèges et n'a qu'une ambition, nous tenir servile, volontaire à notre propre contrainte. Il muscolo e la fermezza sono veramente una classe sociale, una classe che difende i suoi privilegi e ha solo un'ambizione, tenerci servile e volontari alla nostra propria costrizione. Nous ne laisserons pas faire. Stockons toutes les graisses saturées que nous pouvons. Cessons de nous restreindre. Et maintenant, camarades bourrelets, je vous propose d'écouter notre hymne et de chanter ensemble notre émancipation. Camarades bourrelets de tous les replis, unissez-vous. Non ci lasceremo fare, immagazziniamo tutto il grasso saturato che possiamo, smettiamo di restringerci, adesso compagni e cucinette, vi propongo di cantare il nostro inno e di cantare insieme la nostra emancipazione, compagni e cucinette, ogni piega, di ogni piega, unità, unitevi. Mosh, mosh, mosh, eat, eat, eat, yeah. Vas-y, mosh. Mosh, mosh, mosh, eat, eat, eat, yeah. Vas-y, mosh. Mosh, mosh, mosh, chérie, eat, eat, eat, sweetie, yeah. Vas-y, mange. Laisse pas, mange. Glop, glop, glop. Glop, glop, glop. Miam, miam, miam. Ah, que c'est bon. Laisse pas, mange. C'est bon pour la santé, vas-y, mange. Sans trop de sel, sans trop de sucre. Vas-y, mange. Sans trop de gras, sans trop d'alcool. On a la forme. Produits bio ou naturel. C'est Haïti. De la cassant au petit matin. Vas-y, goûte. Mange, mange, mange, chérie. Eat, eat, eat, sweetie. Vas-y, mange. C'est bon pour la santé. Mange. Dans la propreté. Mange. En tenant compte des vitamines. Mange. Avec des légumes frais. Mange. Mange, mange, mange, chérie. Eat, eat, eat, sweetie. Vas-y, mange. C'est moi qui ai cuisiné. Mange. Et je mange avec toi. Mange. Baby, doudou, mon ange. Mange. Hey, mes soeurs, pas de panique. On mange, on fait du sport. On a des muscles. Et puis force, beauté et love. Bien chérie sur l'île. On a des mangues, des ananas. Bien sucré. On a du lambi, des homards. Bien grillé. Du royal, du chom-chom. Des épis de maïs. Bien grillé. Et bon café. C'est pas balé. Et bon café. C'est pas parler. manger. Manger la caille, pas en pile force. Manger créole, très épicé. Moi v'lais tom tom, à Jérémy. Moi v'lais la Lola, la Simonie. V'lais douce ma coque, à petit bois. Moi v'lais poisson, à port salut ma chère. Ci su Radio Onda Rossa, Megaphonics, dentro martedì autogestito da femministe lesbiche. Oggi trattiamo della tematica dell'oppressione, della grassezza o grassofobia. E arriviamo all'ultima pubblicazione che ho trovato, è un piccolo libro tirato dal 2011 che si chiama Il diario di una grassa che riflette, di Françoise Leclerc. Faccio un appello perché ho iniziato a tradurlo e chi vorrebbe tradurre, aiutarmi a tradurlo e vedere anche con lei come si può fare una distribuzione, una produzione in Italia, sarebbe un bel lavoro per prendere qualche pezzi. Allora, comunque Françoise Leclerc riprende nel suo diario tutte le problematiche, tutte le tematiche che sono legate all'obesità o la grassezza. E leggo la fine del libro prima di vedere l'inizio. Nella nostra società l'obesità resta l'unica caratteristica fisica per quale è socialmente accettato di esprimere pubblicamente pregiudizi senza sentirsi male. Guardate semplicemente intorno a voi e vedrete che renderete conto a quale punto sono ridicolizzati gli obesi senza mai che nessuna si alza per denunciare questo stato di fatto. E non si può per niente più o di meno per fortuna fare delle scherzi razzisti, sessisti o ridicolizzare tutto altro gruppo di persone senza provocare giuste protestazioni, ma i grassi sono i folli della nostra società, dei rei magri. Quando si ride di loro ci sentiamo più magro e dunque virtuosi. Una idea, e se ci fermiamo e fermiamoci questa cosa? E questo dunque è la fine del giornale, del diario di una grossa che riflette. Adesso vi leggo l'inizio. 6 luglio 2009. Stamattina mi sono svegliata con un'idea luminosa. Ho deciso di essere magra. ma risparmiatemi della vostra approvazione, non ho detto che sto per fare una dieta. Mossa di una forte preferenza per lo stato di vivente piuttosto che di quello di morte, curo molto bene la mia salute e ho la convinzione intima che le diete generalmente inefficaci e maggiormente controproduttive nocivano alla salute delle donne. Infatti la mia esperienza e le mie osservazioni mi danno da pensare che il legame tra la dieta e la perdita di peso è solo una credenza, quasi una superstizione. Preferisco utilizzare la mia mente diversamente che focalizzando in modo ossessionale verso un scopo incerto. Eppure ho deciso di essere magra. L'idea mi tormentava da qualche giorno, causa dell'estate, credo. Tutte o quasi le mie amiche con il loro ritornello, senso di colpa, autoflagellazione, angoscia, dovevano assolutamente perdere peso. Non mi sopporto più, mai visto, sono troppo grassa. Sì, ho visto, ho fatto più o meno il peso di quando avevo 14 o 16 anni, secondo le vostre dimensioni. Non siete grasse, eppure ne siete convinte. Mi è uscita una conclusione logica che si imponeva alla grassezza e una visione della mente. Se basta credere essere grassa per avere bisogno di dimagrire, sembra logico che basta credere essere magra per non averne bisogno. Ho dunque deciso che sono magra. Sono magra. Da oggi vorrete considerarmi magra e nessuno mi convincerà dal contrario. Qu'est-ce qu'elles sont toutes ces femmes? Hein? Quelque chose va mal. J'aurais souhaité une taille de plus à mon bustier. Au lieu de 85, faire 95. Et ma bouche l'aurait bien un petit peu gonflée. Histoire d'être toujours prête à donner un baiser. Mes fesses mériteraient d'être rehaussées. J'ai mis de côté de la maille pour me faire l'hyposuffe. 7 luglio 2009. Oggi sono andata da mia madre. Le ho spiegato che, come l'avevo deciso, ero magra. Mia madre è stata alla dieta tutta la sua vita con l'eccezione di non ingrassare, ma è una persona che possiede una qualità molto piacevole, non mi contraria mai. Quindi quando le ho fatto notare, allora vedi come sono magra adesso? Mi ha risposto, sì, d'accordo, ma per la tua salute sarebbe comunque meglio che lo fossi ancora di più. Le mamme sono sempre molto preoccupate dalla salute della loro progenitore. Infatti, secondo le mie osservazioni, sembra che la salute delle grasse preoccupa tutti. Vi assicuro, se siete grassa, il vostro entourage si preoccupa particolarmente della vostra salute, mentre si frega totalmente della salute di tutti gli altri. Non mi credete? Eppure, se divorate tonnellate di cibo grasso o dolce, pizza, dolci, patatine, solda, ebbene nel momento in cui non vi fa ingrassare tutti se ne fregano. E d'altronde per questo che alcune o meno e meno numerosi alcuni che non vogliono preoccupare le loro vicini si forzano da vomitare sperando così non ingrassare e dunque evitare di attirare l'attenzione della loro cerchia. Al contrario, pensate con un yogurt leggero e cenate con un carciofo bollito, siete carenziate a forza di restrizione e malattie, ma nessuna ha paura per voi. Sarete felicitate piuttosto, visto la vostra silhouette, di prendere così bene cura di voi. Vi assicuro, la salute della gente non preoccupa nessuno, tranne se si tratta di quella di una grassa. Prendete psicofarmaci, che problema c'è, finché non si vede. Siete sempre ubriaca, bevete troppo, finché siete simpatica e conviviale. L'industria alimentare ci velena con i pesticidi e gli OGM, finché fa profitti. Le antenne sono sospette di provocare tumore finché abbiamo la rete. I sumatori sono ingrassati come delle oche nel paese del foie gras finché sono dei viventi. ma se riprendete un pezzo di dolce attirata, attirate tutta l'attenzione su di voi, concentrate la preoccupazione unanime del tavolo. Vi sarà detto per la vostra salute di fare attenzione, vi sarà consigliato di non prendere il rischio di ingrassare, è troppo cattivo per la vostra salute. Vedo solo una spiegazione a questo fenomeno, lo so, sì, è ingiusto, ma si deve vedere la realtà in faccia. Le grasse sono le persone da cui si prende il più cura, quelle da cui c'è la più grande solitudine. Per la salute di quelle ci preoccupiamo di più. Perché? Ma perché le amiamo, le vogliamo bene. Ecco, tutto questo è solo amore. Raggiunta a quel punto del mio ragionamento, mi trovavo davanti a un dilemma crudele: decidere di rimanere magra e confrontarmi all'indifferenza generale, o sarebbe meglio di tornare grassa per accogliere tutto questo amore. Ma che sono tutte le femme a vouloir changer leur corps, hein? Je crois que quelque chose va mal. Les Barbie sont de nouveau à la mode, voix. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein? Et oui, quelque chose va mal. L'anorexie aussi est à la mode, voix. Je vais entamer un low régime, histoire de retrouver la ligne. D'après ce que dit ce magazine, à plus de 55 kilos, je peux pas me permettre la piscine. La mode est aux tailles fines, aux fesses plates dans les jeans. Alors même si c'est dégueulasse et que parfois ça donne la chiasse, je mangerai cette merde en sachet. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein? Je crois que quelque chose va mal. Les Barbies sont de nouveau à la mode, voix. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein? Et oui, quelque chose va mal. L'anorexie aussi est à la mode, voix. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Ignore-les, oublie-les, laisse-les dans leur schéma. Danse ta danse, sois sûr que personne n'y résistera. Une fille est une fille, et toutes les armes tu les as. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein? Je crois que quelque chose va mal. Les Barbies sont de nouveau à la mode, voix. Stiamo ascoltando Ste Stross, ma che c'hanno queste donne? Sembra che la Barbie è alla moda. E continuo il diario. 8 luglio 2009, Karine è venuta a trovarmi, una brillante studentessa di scienza fisica. Mi ha confidato di aver deciso di fare ricorso alla chirurgia di clusura dello stomaco. Sembra aver risolto il dilemma in cui stavo io il giorno prima. Karine evidentemente non aveva a che fare dell'affezione che procuro un po' di pinguedine. È molto intelligente, molto matura. Sono meravigliata delle sue capacità di analisi, l'originalità dei suoi ragionamenti mi stupiscono sempre. Karine vive con Agathe, tutte e due si nutriscono in modo anarchico. Agathe non saprebbe distinguere un cetriolo di una zucchina, ma che importa, che comunque importa poco, perché non hanno neanche un pelapatate. Karine non sa accendere un forno, ogni tanto quando hanno fame vanno di fretta e cucinano la pasta o accendono comprare un kebab. Agathe, che è magra, non ha per niente la voglia di fare bloccare lo stomaco, la sua alimentazione non la preoccupa per niente. Ho prima suggerito a Karine che piuttosto di restringere la quantità di cibo mangiabile ne potrebbe ammigliorare la qualità, ma lei diabolizza il cibo, giudicato nocivo in sé e responsabile di tutti i mali. Lei voleva una soluzione anche radicale per sbarrarsene. Mi sono allora informata su queste tecniche chirurgicali, ecco che ho trovato con stupori. Un'indagine che si chiama Report on Weight Loss Surgery di Paul Ansberger rapporta che la mortalità delle donne avendo subito una chirurgia dello stomaco e 3 a 10 più alta di quella delle donne dello stesso età, dello stesso peso, che non l'hanno subito. Questa mortalità attiene un 18%, quasi una donna su 5 negli ultimi 10 anni che seguono l'operazione. Strano che si riesca a uccidere così tanta gente per il loro benessere. Ho fatto vedere questo studio a Karine, le ho fatto vedere la lista delle complicazioni a corto, medio, a lungo termine, le patologie potenzialmente mortali che l'aspettano, in quale percentuale di rischio di disturbi variati e quali lei dovrà comporre. Con quali lei dovrà comporre. E ho anche fatto vedere la testimonianza delle persone che hanno subito queste intervenzioni e che descrivono le torture che ne sono risultate per loro. Questo le è uguale, è capace di mettersi in pericolo la vita, di subire torture finché, perché preferisce morire che di essere grassa. Quelque chose va mal. L'anorexie aussi est à la mode, voir. C'est pour toutes celles qui s'assument comme Beyoncé, Angie Stone, Jill Scott et Mary J. Celles qui ont un booty que certains disaient. Toutes ces femmes sont elles-mêmes et ne souhaitent rien changer. C'est pour toutes celles qui s'assument comme Beyoncé, Angie Stone, Jill Scott et Mary J. Celles qui ont un booty que certains disaient. Toutes ces femmes sont elles-mêmes et ne souhaitent rien changer. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes? Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes? Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein? Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes? Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes? Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes à vouloir changer leur corps, hein? Il dialogo continua e l'autrice, raccontando diversi episodi della sua vita, fa il giro delle false informazioni che girano intorno alla salute delle grasse. Impariamo per esempio che esiste un'indagine giapponese che dimostra che le persone magre vivono 6 o 7 anni di meno di quelle più grasse e anche meno a lungo delle obese. Impariamo tante cose. Volevo dunque questa indagine che è fatta su 50.000 persone dall'età di 40 a 79 e dunque che rivela infatti il rischio di essere magra, il fatto che le persone grasse hanno una durata di vita più lunga. E le principali ragioni per quale le magre hanno una durata di vita più corta tiene notamente al fatto che hanno una più grande vulnerabilità alle malattie telle come la pneumonia, la fragilità dei loro i loro canali del sangue. E dunque sarebbe preferibile che le persone magre arrivino a un peso un po' più normale. Questo per esempio. E poi Françoise nel suo libro racconta l'oppressione quotidiana di per esempio le amiche che intorno a lei gli fanno notare quando lei prende un soda o quando loro si continuano a dire che sono magra. Dunque oppressione quotidiana. Altre informazioni, per esempio quanto costa l'obesità. Lei dice che si riferisce a un libro, La sociologia dell'obesità. Per concludere, dicono le autori che considerano come legittime di calcolare, per concludere Le autori considerano come legittime di calcolare il costo dell'obesità, ma suggeriscono ugualmente di prendere le misure del costo della ricerca razionale della sottilezza. Il costo delle diete, per esempio, che è valutato a 30 miliardi annuali negli Stati Uniti nel 99, il costo dei trattamenti chirurgicali dell'obesità, le complicazioni che si sono associate, il costo del trattamento dei problemi legati alla fluttuazione del peso, tipo cardiovascolare notamente, il costo le perte della produttività degli individui che hanno dei problemi, eccetera, eccetera. Dunque, senza un'analisi che compara i costi dell'obesità e i costi conseguitivi alla ricerca della magrezza, il problema non può essere recepito. Che altre cose, tante cose si trovano, e possiamo dire, per concludere questa trasmissione, prima che vi ritroverete i testi letti sul nostro blog, continuo a dire che faccio un appello a aiuto per traduzione di un grande, c'è molto documenti, c'è molto cose che sono uscite su questo argomento. La cosa che possiamo dire per concludere è che comunque sottolineano, ci sono dei punti che tornano sempre, di non fare l'associazione tra mangiare e la dimensione del corpo, prima cosa, che fare cadere quest'idea che l'obesità è una malattia, quando si sa, e questo è ancora ben dimostrato, che l'obesità è una malattia inventata dalle compagnie di assicurezza, dell'assicurazione, che poi muovono sempre i criteri dei pesi e del rapporto tra l'altezza di una persona e il suo peso per cambiare le norme e recuperare più soldi, che dietro questa oppressione, a parte il malessere e il vissuto molto spiacevole che subiscono le persone grasse, c'è enormi interessi dal punto di vista delle compagnie delle medicine farmaceutiche e dell'alimentari e nel corpo medicale, e dunque sono i punti su quali comunque sono dei punti che tornano sempre quando si tratta di grassezza e di oppressione della grassezza. Una piccola cosa trovata, sì, per esempio, per finire direi che chiedono per esempio di non accettare di essere sistematicamente pesata quando si va dal medico, e questo può essere un gesto che per chi non ha il problema dell'oppressione della grassezza, può fare facilmente rifiutare di essere sistematicamente pesata, dare il peso quando si fa le visite medicali. Per le musiche abbiamo sentito Les Reines Prochaines, Eight Jets, Miss Platinum, Give Me Food, Mange de Rara Femme, Talia 38 de Les Rivoltelles, et di Ma che c'hanno tutte queste donne di Strauss, di Society Strauss. E lei è Sandrenka, che volete stay true, rimane vera, perché vogliono che entriamo tutte, vogliono che entriamo tutte nelle le scatole. Gros boudin, apprenez à vous aimer comme vous êtes. Vive la cellulite. Oui, oui. Oh oui. Vive les bourrelets. Oui, oui. Say true to yourself. Some like to hide behind their hats. They don't really need it, but they still do it somehow. I'd rather be like I was supposed to be, not like others who think they carry through me. You gotta stay true to yourself. Only believe in you, you, you. Stay true to yourself. Only believe in you, you, you. Stay true to yourself. Only believe in you, you. What you think is true to yourself. Only believe in you. Wanted me to be a teacher. My father would have loved me better if you. What about Lucat? My brothers, they wanted to have a little skinny model sister, but nobody's gonna change me. Yeah, yeah, yeah. You got to stay true to yourself. Only believe in you, you, you. Stay true to yourself. Only believe in you, you, you. Ah oui. Ah bah quoi. Ceci est ma toute première chanson et j'aimerais la donner à ma maman. You are only round. Et puis dolla la fine della canzone va. Come avete visto c'è il cambiamento di turni che si fa così. Eccoci. Oh, oh, oh, oh. Violencia engendra violencia. Si la tienen en su mesa cada día, nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics. la musica vista dal cielo, trasmissione musicale e geopoliticale. Pour le même combat.